La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле еле. Quando ero piccola nel mio paese umbro, cattolicissimo, nell'alta valle del Tevere, la bestemmia era molto importante. Se è vero, come dicono alcuni, che è un attestato paradossale di fede, che è una preghiera rovesciata, allora i miei paesani pregavano moltissimo. I contadini specialmente, che facevano una gran vitaccia. Non erano i padroni della terra che lavoravano, la maggior parte erano mezzadri, ed era una lotta eterna col padrone, anzi col fattore, questi guardiani della proprietà, questi giustizieri dei poveri. La mortalità infantile era altissima e le loro vite non valevano niente. Così i contadini bestemmiavano, perché erano credenti, e si consolavano, perché almeno sapevano con chi prendersela. La bestemmia era una specie di equilibratore sociale. Invece di ribellarsi ed era di piglio al falcetto, tiravano giù dal paradiso Dio e tutti i santi. Molti ripetevano le bestemmie consuete, correnti, però c'erano altri che le inventavano, avevano il genio della bestemmia. Ce n'erano, mi ricordo, di famosi per l'arguzia, la fantasia e la potenza di questo eterno duello col Padre Eterno, il quale non rispondeva, non si vendicava, non subito. C'era tempo, c'era tutta l'eternità. Dio non li puniva in vita, non si affrettava. Tanto dove andavano? Prima o poi dovevano morire e lui aveva in mano la carta dell'inferno. Антон Павлович Чехов однажды заметил, что умный любит учиться, а дурак Il più famoso dei bestemmiatori d'ingegno fu a quei tempi Nanni, detto il tedesco. Lo chiamavano il tedesco perché da giovane aveva fatto il minatore in Belgio ed era il bestemmiatore più tremendo della regione. Senza motivo e senza vergogna, inventava insulti a tutti i santi. Sapeva che sarebbe morto dannato, ma rideva, beveva e sbatteva le contadine, le vedove, le ragazze per bene contro i muri e sui prati, o dove capitasse. Era sano, cantava, aveva figli e denaro e una moglie che parlava poco. Ma verso i 40 anni, dopo una vita coraggiosa, capitò tra le mani di un giovane prete della Petresca, fresco di studi. Il prete non gli parlò subito di ciò che gli stava a cuore. Prima se lo fece amico, bevendo con lui e ascoltando le sue canzonacce con serenità. E poi, poco a poco, con la furberia dei suoi studi, invece di spaventarlo con le punizioni di Dio, gli fece capire quant'era lunga l'eternità. Nanni il tedesco all'eternità non aveva mai pensato. E quando ci pensò, si smarrì in un conto infinito di numeri che lo minacciavano come forconi infuocati. Continuò a cantare e a guardare le donne, ma era perplesso. Malediceva Dio per abitudine, ma sentiva su di sé il peso di un tempo incomprensibile per il suo mondo in cui di solito i conti tornavano. Era così grave il problema che senza volerlo cominciò a tacere e a mormorare cose che sembravano maledizioni ed erano invece quei numeri nei quali la sicurezza della sua vita si perdeva. Nanni era ormai un altro uomo. Invece di, e qui ci sono le bestemmie che non si possono dire, diceva solo per baccolina. Perse il rispetto di tutti, che erano abituati al suo vigore e non sopportavano mutamenti così irragionevoli. La gente lo guardava con sospetto e fu con sollievo di tutti che un giorno Nanni, arrivato al colmo dei suoi conti impossibili, diede di matto e fu portato in manicomio. E le bestemmie di un matto, si sa, non contano per la giustizia di Dio, perché in manicomio, come prima cosa, aveva ricominciato a bestemmiare come un ossesso. A умный в одиночестве гуляет кругами, он ценит одиночество больше всего. Il giovane prete della Petresca, che nonostante la propria fede si era intristito in una parrocchia infruttuosa, andò a trovarlo con l'aria contrita e un sacchetto di fichi. Nanni lo prese per il collo e voleva ammazzarlo. Ma quando glielo tolsero dalle mani, il prete pregò di non mettergli la camicia di forza. Prese Nanni sotto braccio e passeggiarono insieme in quel brutto giardino senza fiori. Si guardarono a lungo. Poi Nanni scoppiò in una risata insana e chiese di essere confessato. Il prete si sedette su una panchina di pietra. Nanni si inginocchiò davanti a lui, bisbigliando, mentre l'altro annuiva e non sembrava scontento. Nanni il tedesco, sotto il segreto confessionale, che poi non si sa come fu violato e la cosa venne sulla bocca di tutti, disse al prete che non era matto. Gli disse che a forza di pensare all'eternità gli era venuto schifo del lavoro, della famiglia, dell'onestà, del cielo, nel quale credeva e che odiava. Ma visto che Dio aveva il coltello dalla parte del manico, non era proprio il caso di fare una battaglia perduta. Preferiva stare tra i matti, dove poteva mettersi alla pari con tutti i santi del paradiso ed essere anche perdonato grazie all'infermità mentale. Il prete lo benedisse e finse di crederlo più matto che mai. Ma era un giovane intelligente. Aveva letto i libri, sapeva bene che Nanni aveva detto la verità. Continuò ad andare a trovarlo. Nanni, appena lo vedeva, vomitava bestemmie sempre più fantasiose. Il prete alzava gli occhi al cielo, gli portava le mentine e sotto sotto si divertiva, perché era invidioso di Dio, che comandava tutto e non conosceva le difficoltà di un mondo pieno di bolscevichi e di misere questue. А дураком быть выгодно, да очень не хочется, умным очень хочется, да кончится битьем. У природы на устах коварные пророчества, но, может быть, когда-нибудь среднее найдем. Mi è arrivato un messaggio nella bottiglia di una signora che dice di essere single da 10 anni e che vive porta a porta con la cognata e col fratello, i quali si mancano di rispetto tutti i giorni, ogni tanto si pigliano pure schiaffi, però dopo che hanno litigato ridono insieme fino alle lacrime, mano nella mano, e lei li invidia. E beh, la capisco, cioè li guarda e guarda questo balletto di queste liti fatte apposta, questo sputarsi in faccia, e come un fulmine sente la nostalgia del matrimonio, con tutte le sue miserie, i disprezzi taciuti, il sesso povero, i piedi freddi, scaldati l'uno con l'altro pure se hanno litigato, nel covile del letto che non conosce vergogna, gli indiscreti rumori che dopo un po' uno si lascia andare, le crasse indulgenze, i conti truccati per nascondere i minuti egoismi e quella tenerezza cagnesca, quel conforto vile davanti alla paura della vita, con l'idea che quasi che in due si potesse sfangarla meglio, quel meschino e altissimo senso di impunità, come lombrichi sotto un sasso, quel senso di capanna, di riparo, invece che stima la pietà, ed è già qualcosa. Io mi sparerei veramente, ma insomma a molti piace. La guardiana del faro. Qui capitaneria di porto, telefonate in arrivo per Barbara Alberti. Pronto, chi sei? Sono Harald, un ragazzo giovane di 25 anni. Beh certo, non sarei mica un ragazzo vecchio. Ci sono anche i ragazzi, cioè io direi che sono un ragazzo, cioè sono un po' vecchio dentro, un po'. Allora, ho questa amica qua che è più che di un'amica, l'ho conosciuta 3 anni fa. E appena l'ho vista mi è piaciuta subito e ho cercato, come maschio che sono, di provarci in pratica. Però lei ha detto no, siamo diventati amici. Io ho certe regole che dico che quando è un'amica è un'amica, non ci provo e non ci vado a letto. Passando gli anni ci avviciniamo e ci avviciniamo ancora di più. Fino a quest'anno, quando io incontro una sua amica, mi presenta una sua amica e con questa amica io mi ci metto. E lei, quando l'ha saputo, è andata un po' fuori di testa. E che per me, io fino a quel momento sì, era un'amica, mi piaceva ancora, però siccome amica, avevo detto al mio cuore, ai miei sentimenti, basta. Taci. Taci, ecco, brava. Poi c'è un periodo di 2 o 3 mesi che si è lontana da me, e poi lo capisce e comincia a riavvicinarsi sia con me sia con la sua amica. Ma tu come stavi con questa tua amica? Eri innamorato? Con questa persona io non, cioè, volevo, però non ha funzionato, perché io dico questo, che una persona quando è innamorata fa di tutto, il possibile, tutto il possibile e l'impossibile per tenere questi sentimenti vivi, diciamo, per non lasciarli. Vabbè, con questa non è funzionato. Questa mia amica ogni volta... La Senti, tua... diamole un nome, se no ci confondiamo, un nome fittizio, sì. Chiamiamola Anna, va. Quando io mi allontano dalla sua amica, la Anna... comincia a avvicinarsi, ok, si avvicina. Arriviamo al 31 di quest'anno. Io non vado a casa, perché io vengo da un altro paese, studio qua. Da dove vieni? Io vengo da Tirana, dall'Albania. E lei era molto contenta, facciamo il Capodanno insieme, ho detto sì. E io organizzo una cena a casa mia, molto carina, con altri amici molto simpatici. 3 punti in questa cena. Prima lei impara la parola ti amo nella mia lingua, e 1 e 2 che mi dice ti amo. Come si ti dice? Amo. Come si dice in albanese? Da noi ci sono 2 parole per dire: to tua, che vuol dire sia ti amo che ti voglio. Invece amore, quello che senti per una persona, si dice dashuroi, è un po' difficile da pronunciare. Sì. Viene il 31, il capodanno, scoccano le 12 e io e lei non ci facciamo gli auguri. E dopo un po' io gli dico: guarda che noi non ci siamo fatti gli auguri. E mi dice: sì, vabbè. E mi viene a baciarmi, a porgermi la guancia. E dico: no, tu sei sola, io sono sola, un bacio, ci diamo un bacio. Così parte un bacio. Dopo 10 minuti, facendo delle foto, io ero abbastanza ubriaco, e quando sono ubriaco esco un po' da me stesso, diciamo, dal contenimento, da quello che io mi contengo. Cioè sempre, entri in te stesso, diciamo, ecco. Forse è quello, forse è l'inverso. Andiamo in discoteca e io vado e la bacio. Io sento qualcosa e penso che anche lei ha sentito qualcosa sicuramente. Però sia io che lei non avevamo quel coraggio di un bacio... Vero. Quello vero. Comunque, vabbè, io bevo ancora e divento ancora più pazzo, diciamo. Siccome è un'amica, no? Non posso andare con lei, cioè non è un'amica. E quindi comincio a stuzzicare le altre ragazze che avevo attorno. Lei un po' si incazza, mi sa. Però io ero un po' ubriaco e non l'ho intuito, diciamo. Poi l'indomani ci alziamo, ci parliamo, ci messaggiamo, qua e là, usciamo. Vi lavate i denti, prendete il caffè, no? Eravamo magari... ancora, comunque, usciamo, facciamo un giro per riprendersi in pratica, ci beviamo un cappuccino e nel frattempo escono dei discorsi che non so come descriverli, perché mi dice: vabbè, tu sei straniero, ci sposiamo, così fai i documenti. Io che gli faccio le battute, almeno la prova bacio l'abbiamo fatta. Continua sta cosa, questo riavvicinamento, questo si scocca, non si scocca, si fa, non si fa. Poi lei si allontana e adesso c'è, sì, siamo amici. Scusa, ma perché ti vuoi fermare? Cioè, non ho capito. No, io non mi voglio, cioè, ci sono state troppe cose, troppe complicazioni, no? Ma quali io non mi voglio fermare, però prima sono stato con la sua migliore amica. Ma quello quindi... è il passato, scusa, cioè, voglio dire, tu sei interessato a questa ragazza o no? È chiaro che lei è innamorata pazza di te ed è pure gelosa. Questo è evidente, sta soffrendo per te da un sacco di tempo. Tu hai questo dogma dell'amicizia, ma non è mica la Madonna, non è mica tua sorella, ecco, voglio dire. Ecco, questo è un problema mio, perché io mi sa che l'amicizia, un po' una dea in pratica. Non solo, tante volte si passa dall'amicizia all'amore. Ho paura, diciamo. Ah, di che hai paura? Ma l'hai messa su un altare? Guarda, quando ci mettono su un altare è una forma di lontananza. Sì, ti ho sentito in radio che tante volte questa cosa è per tenere lontani. Quindi voglio dire, tu devi vederci chiaro dentro te stesso. A me sembra una cosa, anche perché, guarda, ricordati una cosa, Harold, che senza amicizia l'amore è difficilissimo. Cioè, o hai quella passione, non so, c'era un vecchio film che forse avrai visto perché è un classico, Ultimo Tango Parigi. In Ultimo Tango Parigi questi si vedono per fare soltanto l'amore. E lì l'amicizia non occorre quando ci sono queste storie soltanto di sesso e di passione, ma la vostra è una storia che è fatta di tante cose in comune, per cui voglio dire, non devi fare questa divisione col macete tra amicizia e amore. Sono due forme dell'amore, l'amicizia e dell'amore spesso si mischiano, quindi non capisco queste tue, non capisco no, questa tua a volte c'è anche, esitazione. No, siccome c'è questa allontanarsi sempre, avvicinarsi, allontanarmi, nel momento ho paura che io la faccio capire questa cosa nel momento sbagliato. E nel momento se mi dice no, io il mio cuore si infrange. E poi non c'è più. Ah, ecco, quindi hai paura. Senti, Harald, rifletti un po' meno. Fatti un bel drink, perché ho l'impressione che la parte migliore di te viene fuori quando bevi. Non ubriacarsi da non stare in piedi, perché quello poi si paga troppo fisicamente. La coscienza ce l'ho sempre, guarda, ecco, Barbara. Però voglio dire, bevo, sei troppo riflettivo. Bevo da morire, però la coscienza ce l'ho sempre. Ecco, però magari un aperitivo, voglio dire, una piccola cosa, un martini, voglio dire, perché secondo quello me, non mi basta, è quello il problema. Io credo che tu debba fermare questo meccanismo infernale della riflessione, che è veramente nemica dell'amore. State molto bene insieme, lasciati andare. Tu invece stai lì a fare delle tavole della legge ogni volta che la vedi. Guarda che non va bene, sai. È difficile, molto difficile. Siccome io sono giovane, ho sofferto un po' dell'amore, diciamo, perché prima, quando avevo 20 anni, pensavo che credevo nell'amore, quello che trovi una persona è l'amore eterno. E ho visto che questa cosa non è vera. Cioè, l'uomo e la donna anche si innamorano tante volte e ci sono tanti amori. Harald, c'è una frase bellissima in un libro di Sciascia che si chiama Candido, e dice ogni tanto c'è il leitmotiv in questo libro, e dice: perché tutte le cose sono semplici. È vero, la vita è molto complicata, i sentimenti sono complicati, però guarda che la semplicità è meravigliosa. Sì. La semplicità è meravigliosa, è una forma di generosità verso se stessi e verso gli altri. Poi appunto la vita in sé è complicata, sta a noi. Ma complichiamo anche noi tante cose. Esattamente, tante quindi ecco, cioè, siamo noi, prego. Quelli che, perché tante cose sono semplicissime. La semplificazione è un'altra cosa, è un attentato alla complessità, ma la semplicità è bella. Harald, vai, sì ragazzo, approfitta adesso per essere giovane che hai 25 anni. Ecco. Vero. E non avere paura dell'amore, perché sennò l'amore avrà paura di te. Fra i messaggi nella bottiglia me ne è arrivato uno lunghissimo, molto lamentoso, di una donna che è stata lasciata dal marito, che non ha altre prospettive e che insiste, ma come può essere finito? Io mi ricordo l'intervista veemente, afflittissima, della moglie di un uomo molto famoso che si era innamorato della giovane segretaria, e la moglie disse alla stampa: difenderò il mio matrimonio con le unghie e con i denti, non divorzierò nemmeno se lui avrà un figlio con l'altra. Ma quali unghie, ma quali denti? Lui ormai era da un'altra parte. Difatti sposò l'altra ed ebbe un figlio e morì poco dopo. Beh, inutile nascondere il nome, era Pavarotti. Ora, non riconoscere i fatti, secondo me, è un doppio dramma. Non riuscire a cambiare strada, credere nel matrimonio come in un dogma. Io conosco altre mogli che si sono battute come cosacchi per conservare il matrimonio e una volta finito sono state colte da un senso di onnipotenza inebriante. Perciò vorrei dire, mogli, non aggrappatevi, non serve a niente. Lui va verso la porta, spalancagliela. Rapidità, mi raccomando, devi essere più veloce di lui e soprattutto meno prevedibile. Non piagnucolare, non rinfacciare, non dire dopo tutto quello che ho fatto, se hai fatto non importa, non maledire. Dimentica tutto ciò che hai scritto nella tua memoria di replicante. È il tuo momento, è la tua scena. Devi dimenticare i telefilm, quello che hanno fatto le amiche, quello che ti ha detto la mamma, quello che ti ha detto l'avvocato. Divertiti, salta di lato. Quella scena poi tu te la ricorderai per sempre e ci devi fare una gran bella figura con te stessa. Non deve essere una scena che ti sprofonda all'inferno, ma quella che ti catapulta in te stessa, che davanti a te stessa ti fa lieve. È il tuo momento, non quello di un'altra. Che il fuggitivo abbia l'impressione di lasciare una persona che non conosce. Ed è così, neanche tu ti conosci. Dai, conosciti adesso. Fatti vedere di cosa sei capace. Esci dal copione. Tira fuori il monello ingenuo e generoso che c'è in te. Salta sul lampadario. È solo un esempio. oscillagli davanti al naso, sorprendilo, tramortiscilo. Pensa che non sei più sua moglie, non sei più la moglie di nessuno. Da quel momento sei una persona. Piangi se vuoi, però piangi come puoi piangere tu soltanto in quella circostanza. Fai la sbruffona, ma con grazia, per piacerti, per innalzarti ai tuoi occhi. E poi richiudi la porta. Il peggio è passato. Ora c'è la vita con le sue cose sorprendenti. Soffri, ti senti morire, ma l'umiliazione è finita. Come potevi sopportare di non essere più nell'occhio dell'altro ciò che eri stata? Per chi si ostina a trattenere un marito, un fidanzato, un amante e persino un amico che non c'è più, vorrei leggere una poesia di questo poeta ungherese, Endre Ady, che si intitola Canto di liete esequie. Ciò che trascorre si fa brutto. Nemmeno la tristezza è bella, se è spenta. Da lungo tempo odio il passato e dico ai piagnoni, beato chi seppellisce con lietezza. Cessare è l'ordine della gioia e senza fine vengono le gioie. Lascia la zitella dei ricordi e libero e lieto afferra il presente. Chi non è oggi non è mai stato. Ricordare è un peso da schiavi. L'uomo libero dimentica e se ne va. La guardiana del faro. Mi arriva un invito un po' su... Ah, si è svegliato! Il naufrago si è svegliato, perché la settimana scorsa ha fatto un naufragio qui al faro Paolo Villaggio e si è rifugiato qui, ospite graditissimo e non lo credereste veramente costumato. E poi fa dei racconti. Rimarrà un po' qui perché si deve riprendere. Ha fatto molta amicizia con i gabbiani, ci parla, eh? E gli stanno sulle spalle, gli beccano le unghie, e ha la febbre alta. Ogni tanto delira, ma in maniera veramente ragionevole. Per una convention... No, ma che stai dicendo? No, aspetta. Ma che fai, la predica ai gabbiani? Ma che sei, San Francesco? No, aspetta, questa storia la voglio sentire anch'io. Dunque... No, sto zitta, non ti interrompo. Mi arriva un invito un po' misterioso. Dice, la invitiamo alla Fondazione Cini all'Isola di San Giorgio da Venezia, 15 anni fa, per una convention che il titolo è Scrittori italiani in cirillico. E dico, Madonna, cosa, non lo so, che vuol dire? Cioè, ma perché? Adesso poi non lo so, perché era uno di quelli segretari di un'ignoranza totale, non sapeva neppure che fosse la parola cirillico. E io mi presento e mi metto in ultima fila. C'era una sala dove c'era in prima fila la Morante, Moravia, vestito da Moravia con delle ciglia, te la ricordi, non ti arrivi, poi era sordo con una campana e quindi urlava, chi è che parla? E poi tutti gli altri, c'era anche a Brasino. E io in fondo, dico, questi porca puttana rifatti, mi guardavano, direi grande antipatia, perché che cazzo c'entra questo qui? Questo qui è di Tettonic, pensavano che fosse un relitto televisivo, quello che lì alle volte invitano questi strossi, parlo tavolo tra di loro. Un bel momento. Non eri all'altezza, insomma, per loro, eh? Non eri dei loro. Non ero dei loro, era assolutamente un intruso, una cosa che non c'entrava assolutamente. Adesso se tu vai a guardare le librerie vedo che gli scrittori non ci sono più, ci sono solo gli spaghetti della Clerici, la Loren che fa la pasta alla carbonara e anche Emilio Fede, che io confondo con Emilio Fede si chiama? Sì. Ma è l'altro, ce n'è un altro anche, quello del telegiornale. Vedi, Alzheimer puro. Quello che fa porta a porta o porta a porta. Ah, Vespa! Beh, certo, sono sovrapponibili. Sono sovrapponibili, io chiamo certo. Emilio Vespa. Ah, vabbè. È una perfetta sintesi. È vero, sì. Vabbè, il e quindi problema, ti guardano come un cane in chiesa. Mi guardano come, bravo, tieni il filo perché vedi che no, io... No, come un cane in chiesa, sì. Sì, come un cane in chiesa. Mi guardo. Bel momento, si alza un signore che parla in francese, un certo Evushenko. Io dico, Evushenko, io rimango tutti un po' incazzati perché capiscono che Evushenko, prima di tutto Evushenko ha una conoscenza di quello che succede in Italia, mentre da noi non si sapeva nulla della letteratura attuale in Unione Sovietica. Si fermava appunto ai grandi, al massimo a Bulgakov, e Vucenco parla e dice: devo dire una cosa, l'unico, in francese, io lo dico in italiano sempre per la vostra ignoranza, l'unico che ricorda decisamente i nostri Chekhov e Gogol è, e si tira qua un fogliolino sotto gli occhi e legge, è un certo Vigliacco, ha detto, l'ha letto male della Francia. Io ho sentito, io ho capito che ero io, Dio mio. Allora il direttore di sala, l'entraîneur, come si dice, quello che organizza le cose, una maestressa, fa si alzi. Allora io mi sono alzato, mi scusi. Moravia, ragazzi, si è voltato, aveva sopracciglia gigantesca. Ma guardate come dire, che cazzo succede? Perché lui era pronto, perché pensava di essere lui. Sì, è chiaro, penso. E io ho detto, mi scusi, stavo per dire, un genio di Moravia, ma è questo imbecille. E Vucenco, guardi, che non mi permetterei mai, basta, la cosa è finita lì. È vero, io la racconto sempre, perché questa è, sì, è la verità. Lui ha detto, l'unico, ma difatti è vero, perché il piccolo funzionario terrorizzato che viveva nella Russia, pre-rivoluzionario, certo. Come? Il cappotto, sì, ma no, tutto Gogol, sì. È tutto cieco, soprattutto cieco, il terrore della gerarchia. Quindi era esasperato, era esagerato, però sinceramente mi sembra che adesso la gerarchia sia entrata anche in politica, costa perché molto, certo. Ci sono solo dei yes men. Il capo dice, sono 300 deputati eletti dal popolo, ciascuno dovrebbe rappresentare i suoi votanti. Invece tutti dicono, a lei come la penso? Beh, io adesso vedo, poi do. Perché? Ordini di scuderia, perché la gerarchia. Quindi vabbè. Chi è Fantozzi oggi? Dunque, Fantozzi è in una situazione in questa volta drammatica, perché prima, tutto considerato, lui, sì, non era del tutto... non sapeva, il suo timore era la gerarchia, la paura di perdere il posto e poi soprattutto alla fin fine soccombeva, però in fondo aveva tutto quello che la società consumistica gli aveva indicato, aveva la bianchina, la macchina, la moglie, beh, brutta, la figlia scimmia, poveraccio, che ogni tanto lui cercava di cambiare con una figlia normale, però alla fin fine in casa era un tiranno, era un cazzo, sempre era cattivo, proprio una belva umana, però alla fine era abbastanza felice. La verità è questa. Adesso i Fantozzi si sono mascherati, hanno i pantaloni, i jeans stracciati che vanno a comprare, non so dove, ci sono dei negozi per jeans strappati, quella è una stronzaggine, hanno degli occhiali naturalmente, doc, eccetera, gli orecchini. Adesso è pieno di orecchini, tutti al naso, no, ma insomma siamo vicini. Tatuaggi tutti, come i giocatori che sono testi di caso, tatuaggi. E li vedi dietro gli sportelli delle banche che sono lampadati. Cioè gli dici, dove è stato lei? È stata alle isole? Lui dice, no, lampada. Poveracci, si distruggono con le lampade. E sono veramente terrorizzati, perché mentre quello... era arrivato, l'obiettivo più o meno l'aveva centrato, lavoro fisso, basta, che se ne è per la macchina, il weekend al mare, vabbè, andava oggi, ci metteva due ore, adesso le misure di questi disgraziati, anche in moto, sono 4 ore andare e 4 ore tornare, è una tragedia vera, e non hanno assolutamente un futuro, beh, sai, in gran parte sono precari. I giovani fino a 35 anni sono dei bamboccioni. Che fai tu, 35 anni? E adesso forse farò, vedrò. Ma per carità. E sono veramente incazzati. E la cosa che spaventa di più è che hanno paura, adesso in questo mondo dove tutto è immagine, dove quello ha i baffetti, parlo di D'Alema, le barche sono ricche, le veline, escort, trovi, la chiamano escort, adesso. E lui niente, non ha diritto, perché non avendo soldi, alcuni non sono belloci, no? E allora sono incazzati, hanno paura di essere invisibili. Ah, si è addormentato. Dormi. No, adesso gli faccio una coperta di gabbiani, che deve stare tranquillo. questa mia solitudine al faro non è una solitudine pura in cui mi perdo nell'orizzonte e mi dimentico di me, ma che più sto sola e più mi informo, e più guardo sempre su internet le notizie, e più sono frivola e più mi piacciono, devo dire. Per esempio, questa la considero veramente frivola, questa preoccupazione perché ci sono troppi divorzi. Secondo me, a parte che per me il problema è un altro, che la gente si sposa troppo, ma a parte questo, a me veramente risulta che ci sia un movimento inverso. Perché sì, la gente divorzia, ma poi c'è un fenomeno molto inquietante, che è il ritorno dei mariti. I mariti se ne vanno, ma dopo tornano. Dopo tornano, tanto che ci ho scritto anche un libro, ce l'ho messo in un romanzo nel 2006, si chiamava proprio Il ritorno dei mariti, dove la protagonista Delia ha una merceria confessionale dove invece di vendere i suoi merletti eccetera ascolta le confessioni dei clienti, come faccio io da moltissimi anni rispondendo alla posta del cuore. E come me Delia dà consigli a tutte, ma per sé è una vera oca. E quindi comunque arriva questa donna, questa cliente, che le racconta che è tornato il marito. Questo è un signore molto, che si dà molte arie. E arriva, si tenga forte Delia, le devo dare una notizia incredibile. Pausa da concerto, quando tutto tace e di colpo piatti e tromboni. È tornato. Chi? Mio marito. L'ha mollata 8 anni fa coi figli piccoli per un'altra, senza mai darle un soldo. Lei li ha cresciuti con sacrifici. Risparmiavo pure sulla ceretta, usavo la pinza. Per questo i baffi. Si sono rafforzati e ora non se ne vanno, manco si viene giù Dio. Quanti cani, quanti maiali, quante vacche. Pure un cobra una volta. Però chi mi fa davvero schifo sono i gatti. Con quelle facce da ipocriti, quelle smorfie, la signora fa la veterinaria. Adesso di colpo lui si è rifatto vivo e lei se l'è ripreso. Al momento è senza lavoro, ma si dà tanto da fare. È così cambiato. Mi rispetta ora. Cioè, non la porta più nemmeno a letto. Delia saprebbe cosa dirne, però prudentemente sta zitta. Delia pensa che lei se l'è ripreso per vantarsi. Per poter dire mio marito. Delia sa che non c'è soddisfazione più grande per la lingua di una donna. Anche oggi, le più moderne, le donne farebbero qualsiasi bassezza per dire mio marito. Con l'idraulico, col panettiere, con chiunque. Oh, e tutto questo io non è che lo dico delle altre, lo dico anche di me. Ancora mio marito ha un valore. A me piace quando vado in lavanderia. Sono pronte le camicie di mio marito. E c'è quest'idea che qualcuno per una volta ti ha voluto. Ti ha voluto per sempre, anche se in maniera poi estremamente precaria, perché per sempre non è mai. Delia vede tutta la gravità del fatto, nella sua portata singola ed epocale. Quelli tornano. La marcia indietro è inarrestabile. Anche chi se n'è andato nel modo più imperdonabile torna, con pietosa faccia tosta o nascondendo l'orgoglio dei passati delitti. Il ritorno dei mariti evoca qualche immagine eroica di cavalieri immateriali che avanzano nella notte. E invece no, il ritorno alla spicciolata, con identità e abiti di fortuna, è una rotta. I mariti tornano tutti prima o poi dalla moglie. Come se fosse una madre, colei che deve occuparsi di loro per sempre, come un diritto non scritto eppure indiscutibile. Il bello è che quelle se le riprendono. I mariti tornano coi loro fallimenti e le loro arroganze, peggiorati dal tempo, come grossi figli torvi e attempati, o a volte, di rado, con un fascino immutato che trasforma l'ex moglie nella felice schiava di una canaglia. Il libro Il ritorno dei mariti finisce con la sfilata balletto dei mariti che ritornano, in colonna, coi cuori vuoti e le labbra piene di scuse. Cercano una cucina nella quale infiltrarsi. Una vecchia sposa un tempo disprezzata e ora magari ci rivolesse. Saremmo disposti persino a volerle bene, se badasse a noi, se ci imboccasse, insistendo quando facciamo gli svogliati, se ci soffiasse il naso, ci pettinasse con la riga, ci preparasse la cartella di scuola, ci rammendasse gli strappi, ci rincalzasse il letto, la sera, raccontandoci una fiaba di quando eravamo grandi e coraggiosi e magnifici a letto e di come hanno amato solo noi, all'antica, prima delle smanie sulla parità o al minimo pronti ad ammettere che questo maschio che gli stiamo sempre a fare i conti in tasca e a saltargli addosso perché non tornano è alla fine una persona non meno importante della donna che mi si imbatte, uno al quale nessuno fa più una carezza disinteressata da quando aveva 11 anni. La guardiana del faro. Messaggio nella bottiglia in arrivo per la guardiana del faro. Sono una costumista, ho 28 anni. La mia migliore amica, ex collega, con la quale abbiamo condiviso anche momenti di povertà, ma con allegria perché eravamo insieme, ha sposato un uomo molto ricco. Per un po' abbiamo continuato a frequentarci, però non le stavo dietro perché ho uno stipendio modesto. Lei frequentava ristoranti e spettacoli che non mi potevo permettere, finché le ho chiesto se volevamo vederci per fare insieme cose più alla mia portata. Lei si è offesa. Dice: «Già, tu pensi che sono avara, che semmai quelle cose te le dovevo offrire io?» E via via, parlando da sola, mi dice: «Tanto lo so che mi frequenti solo per i miei soldi, sperando chissà che». Io le ho dato uno schiaffo e non ci siamo viste più. Mio padre diceva che coi ricchi ci si rimette sempre. Giorgia. Ma questo lo penso anch'io. Intanto è vero che i ricchi costano. No, io non è che li voglio demonizzare tutti in blocco, eh. Però fatte salve le eccezioni che ci saranno delle persone. Però io devo dire, non li invito più i ricchi a casa mia. Una volta li invitavo perché ho fatto una scoperta. I ricchi rubano. Cioè non è che rubano solo in grande. I ricchi rubano pure nel dettaglio. Io non li invito più perché dopo mancava sempre qualcosa. Cioè loro vedono un po', i ricchi, no? Vedono un portacenere, no? Vedono una spilletta, in tasca. Si attaccano tutto. Molto, molto anche quello che luccica. Cioè una forchetta, no? Anche se è un detergente, ricco, la ficca in tasca. Un anello falso, una moneta, sono come le gazze. Tutto quello che luccica se lo pigliano. Poi c'hanno questa fissazione, no? Che chiunque, che è una malattia, che chiunque gli sta vicino lo faccia per i soldi. Il fatto è che loro sono così convinti che la ricchezza sia l'unico valore, che pensano volentieri di non valere niente senza. Cioè, come la tua povera amica che le è bastato toccare la ricchezza per diventare, non trovo un'altra parola in vocabolario italiano, una vera stronza. A lei si attaglia molto bene questo detto volgarità essere dalla parte della propria degradazione, perché lei si piace così, mica si fa schifo. Marina Svetaeva, questa poetessa russa morta nel 1941, con la sua opera altissima, audace. Lei da sola è la più grande avanguardia del mondo dopo Emily Dickinson, di cui non oso parlare, che è un altro discorso. Questa poetessa russa, che con la sua opera altissima, di grande audacia linguistica, ai suoi tempi, durante la rivoluzione russa, provocò tutti, lo zar, la chiesa, gli atei, i bigotti, i bolscevichi, i reazionari, e che continua a provocare noi, 70 anni dopo la sua morte, scrisse un elogio ai ricchi, che vorrei leggerti. E con ciò, prevenuto in anticipo che fra te e me ci sono miglia, che io mi annovero tra gli stracci, che è onesto il mio posto nel mondo, sotto le ruote di tutti gli eccessi, tavola di mostri, di storpi, di gobbi. E con ciò, dal tetto del campanile dichiaro, io amo i ricchi, per la radice loro, putrida e precaria, che dalla culla coltiva una piaga, per quell'imbarazzata abitudine, fuori dalla tasca e da capo in tasca. E perché non li fanno entrare in paradiso? E perché essi non ci guardano negli occhi? Per i loro segreti, sempre per espresso, per le loro passioni, sempre coi fattorini. Per le notti che gli vengono imposte e baciano e bevono per forza. E perché fra inventari, tedio, dorature, sbadigli, ovatta, proprio me, sfrontata, non comprano. E ancora, nonostante le facce sbarbate, la sazietà, le bevute, per un certo improvviso loro avvilirsi, per una certa loro occhiata cagnesca, non farò da cardine agli zeri? Non è balorda la bilancia? E perché, fra tutti i reietti, non c'è simile orfanezza al mondo? C'è quella favola cattiva di come i cammelli attraversarono un ago. Per lo sguardo loro, stupito a morte, che chiede scusa come di una malattia, come di una bancarotta. Presterei, sarei lieto, ma per quel sommesso, dalle labbra serrate, ho fatto il conto sui carati, sono stato un fratello. Io lo giuro, io amo i ricchi. Qui Capitaneria di Porto. Come richiesto, la Maria delle Acciughe è in collegamento. Ehi Maria, Sono qua. Senti Maria, ma come va la storia con l'uomo delle acciughe? Ma non so, a me piace sempre moltissimo. E io credo di piacergli un po'. Ma dall'altra parte mi prende anche in giro. Ha visto su Facebook la mia fotografia e si è ricordato di me. Allora mi ha chiamato e mi ha detto: senti, guarda, io voglio andare a sciare con te. E io gli ho detto: ma sì, ma che bello, ero felicissima. Lui mi ha detto: sì, andiamo a sciare in un posto, scegli tu dove vuoi. E insomma, per me lui è la mia pista nera, ecco, io altro che sci, cioè. Quindi ero pronta per partire, per andare a sciare. Poi invece la telefonata dopo mi ha detto: senti, perché non vieni in Tunisia con me? E allora io ho detto: ma se insisti, subito. Se insisti vengo. E lui mi ha detto: sì, ma io insisto. Poi non mi ha più detto nulla. Io sempre avevo già abbandonato l'idea di andare a sciare e aspettavo per la Tunisia. La telefonata dopo mi dice: guarda, allora sì, ci vediamo presto. Sai, adesso devo andare prima in Tunisia, poi devo andare in Giappone. Perché non vieni in Giappone con me? Io ho detto: allora sì, subito, vengo in Giappone. Benissimo, allora ti mando le date, così partiamo. Allora io ero tutta contenta. La telefonata dopo gli ho detto: allora quando ci vediamo? E lui mi ha detto: ma guarda, adesso non posso perché devo andare prima in Tunisia, poi devo andare in Giappone e dopo quando vieni in Sicilia, Maria? E io ho detto: ma in Sicilia non so, dimmi quando vuoi, dimmi tu. E lui mi ha detto: ma no dai, guarda, vengo io, adesso presto vengo io. Quindi lui mi prende un po' in giro perché idealmente così mi invita sempre dappertutto e poi invece alla fine non mi fa andare mai da nessuna parte, cioè. Per fortuna che però lui mi manda dei bellissimi messaggi e poi... Come ti rimanda? Mi manda dei messaggi per SMS e per esempio mi dice: le acciughe parlano di loro stesse, non hanno bisogno di glamour. Invece per me che sono un navigante, e a me è sempre l'idea che lui sta, il mare, questo mestiere meraviglioso che fa, mi fa sognare. E invece per me che sono un navigante, mi scrive: un santo in paradiso che abbia sede distaccata in un faro può sempre far comodo. Allora io gli rispondo: ti amo. E lui mica mi dice: ti amo anch'io. Lui mi dice: wow, insomma se la cava con poco. E poi mi continua a prendere in giro facendomi credere che vuole fare un viaggio con me. Allora lui ti dice: andiamo in India. Tu dici: benissimo, no, io vado in America. Andiamo in Africa, benissimo. Sì, vengo subito. No, io vado a Latina. E la stessa cosa fa con le acciughe, che a me piacciono tanto. Lui mi promette di spedirle e mi dice: guarda Maria, domani partono. Il pacco è già fatto, oggi le faccio spedire. E io magari gli chiedo: ma non è che le manderesti anche alla Barbara Alfaro o anche a Nicoletti? Perché, sai, ne hanno sentito parlare tanto. E lui mi dice: ma certo, mandami tutti gli indirizzi che le faccio partire subito insieme alle tue. Allora io chiamo Nicoletti, gli chiedo l'indirizzo esatto, lui mi dice: sì, va bene, allora mi raccomando, però sul campanello c'è scritto così, la Barbara anche, però anche tu pronta, tutti. E poi lui dopo 10 giorni mi dice: ma non penserai che le acciughe arrivino prima di Natale? Perché è impossibile. Viaggiano a piedi. È impossibile. E poi mi dice: ma tu preferisci che arrivino prima le acciughe o che arrivi prima io? Allora lì preferisco lui. Poi mi dice: ma sai, io di acciughe te ne mando poche, perché se di brillanti ce ne fossero tanti, non sarebbero così preziosi. Quindi anche le acciughe devono essere così. Beh, a me dei brillanti non me ne importa nulla, cioè mi piacciono molto di più le acciughe. Poi mi fa credere qualsiasi cosa, e che a me basta che lui mi parli un po' con quel suo accento siciliano per sciogliermi, soprattutto quando pronuncia la R, quando mi dice: parto dall'aeroporto di Fontana Rossa. Io do i numeri. Qui Capitaneria di Porto, interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti, a cura di Gloria Guerrera.